Io conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse, i vuoti, sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi. E sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Come scena su un attore, per amore, hai mai fatto niente solo per amore, hai sfidato il vento, urlato mai, diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso. Dietro a questa mania che resta solo mia. Per amore hai mai corso senza fiato? Per amore perso e ricominciato. E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me, come china il suo pittore. Per amore hai mai speso tutto quanto la ragione, orgoglio fino al pianto. Lo sai, stasera resto, non ho nessun pretesto, soltanto una mania che resta forte mia dentro quest'anima che strappi costa non saperti mia. E sarebbe come se tutto questo mare annegasse in me.